Mi oggi al soundcheck di Radio 24 vogliamo raccontare l'evoluzione dei supporti musicali, come siamo arrivati all'MP3, alla musica liquida, alla distribuzione della musica digitale. Sì, questo è l'appuntamento numero 114 del soundcheck. Buon pomeriggio da Gegé Telesforo. Vorrei proprio partire dalla preistoria, perché già allora le composizioni musicali, per quanto fossero estremamente semplici, erano comunque basate su una melodia ed eventualmente su un testo cantato, e venivano tramandate oralmente di generazione in generazione. Il passaggio dalla tradizione orale a quella scritta si ebbe certo per i testi delle canzoni, con la diffusione del linguaggio scritto, e successivo fu invece il passaggio alla notazione musicale su carta, quindi la semiografia musicale, che riportava sulle partiture l'altezza e la durata delle note e che ebbe già inizio in varie forme in diverse civiltà. Ma l'evoluzione dei supporti musicali ha tuttavia seguito l'andamento esponenziale della tecnologia degli ultimi secoli. Si parte proprio dall'invenzione di alcuni strumenti meccanici in grado di produrre una sequenza di suoni prestabiliti, come il carillon, come alcuni pianoforti meccanici automatici. All'interno di questi meccanismi, anche abbastanza complessi, veniva fatto girare un rullo di carta prestampato che faceva funzionare automaticamente il pianoforte, fino a quando si è passati proprio ad un metodo di memorizzazione diretto della musica prodotta, ovvero la registrazione. Eccoci qui. Questa innovazione permette di riprodurre in modo più o meno fedele, a secondo delle varie epoche, ogni genere di suono e quindi ogni genere di musica che possa essere generata dall'uomo. E ci sono alcune invenzioni fondamentali per arrivare fino all'avvento dell'MP3. E partiamo proprio dal 1860, con un signor che si chiamava Edward Leon Scott de Martinville, che era riuscito a registrare la voce umana proprio su fogli di carta anneriti. Nel 1877 viene inventato da Edison il fonografo, poi il grafofono di Bell e Tainter nel 1880, fino al dittafono del 1907, che era già uno strumento in grado di registrare suoni e di riprodurli. Poi, sfruttando le innovazioni come l'elettricità e le proprietà dei campi elettromagnetici, si diffusero finalmente le tecnologie contemporanee, per quelli più o meno della mia generazione, ma anche prima, ovvero l'invenzione della registrazione su cera lacca, l'invenzione quindi del 78 giri, ma ne parleremo, e poi le tecnologie a nastro magnetico, che verranno infine superate proprio dal passaggio alle tecnologie digitali grazie allo sviluppo di nanotecnologie elettroniche, la cui idea di base continua a essere utilizzata anche al giorno d'oggi. Quindi, durante questa evoluzione tecnologica degli strumenti di memorizzazione e riproduzione, la musica si è diffusa soprattutto tramite mezzi che permettono di ascoltarla come flusso continuo, quindi la radio, la filodiffusione e internet. Ma a un certo punto si è creato anche il mercato della musica, il marketing della musica, e quindi sono stati inventati i supporti, e possiamo già dividerli oggi in due categorie: i supporti analogici e i supporti digitali. Quindi vengono definiti analogici i supporti di registrazione audio che non utilizzano tecnologie informatiche, e infatti quelli sono appunto chiamati digitali. Facciamo subito una pausa con la musica, un album nuovissimo appena pubblicato dal polistrumentista, chitarrista, autore e compositore Kazaya Jones. Si intitola Captain Ragged, e il brano che vi faccio ascoltare si intitola Lunar, qui al soundcheck di Radio 24, Kazaya Jones. Everybody's here to stay. All the aliens far away. Come Soundcheck. Il suono della musica. Sicuramente i più giovani scaricheranno via iTunes in formato MP3 Do What You Gotta Do di Angie Stone, che probabilmente ha richiesto alla sua casa discografica anche la distribuzione di un numero limitato di album in vinile e senz'altro anche il CD, che si trova regolarmente nei negozi di dischi. Non si sa ancora per quanto tempo. Sì, perché oggi stiamo raccontando l'evoluzione del supporto musicale. Fino a poco tempo fa la registrazione permetteva l'utilizzo di due tecnologie principali, ovvero la microincisione su disco di materiale plastico e la registrazione di sequenze magnetiche su nastro. Quindi i dischi a microincisione furono tra le prime tecnologie di riproduzione a diffondersi tra la popolazione. I primi dischi di questo tipo, che erano denominati 78 giri proprio per la loro velocità di rotazione in fase di riproduzione, erano in gomma lacca. Ecco, lo ricorderanno anche gli amici che appartengono alla mia generazione, senz'altro a casa dei nonni avranno trovato anche loro i dischi a 78 giri, che erano proprio fatti di questo materiale plastico molto duro, una plastica naturale ma molto delicati, quando cadevano a terra si facevano in mille pezzi, e i 78 giri venivano incisi solo con mezzi meccanici fino agli anni 50, quando fu introdotto l'ausilio dell'elettronica, che permise un notevole aumento di qualità. E quindi per suonare il 78 giri c'era bisogno del grammofono, che erano strumenti privi di amplificazione elettronica, fino a quando nel 1948 negli Stati Uniti venne distribuito per la prima volta il disco in vinile, e quindi la sostituzione del 78 giri con un disco molto più leggero veniva costruito, come dicevamo, in vinile e girava sul piatto a 33 giri e mezzo. Poi è stato inventato il 45 giri, che aveva dimensioni ridotte, ovvero da 7 pollici, e che poteva contenere solo uno o due brani per ogni faccia del disco. E per la riproduzione sia del 33 che del 45 giri vengono ancora oggi solitamente impiegati giradischi, ecco, che sono collegati a un amplificatore elettrico. In genere i giradischi supportano i vari formati proprio per mezzo di un selettore con il quale è possibile impostare la velocità di rotazione del disco, e ancora oggi si possono suonare i dischi a 78 giri, 45 giri, 33 giri, e dare anche al disco velocità diverse che permettono quindi ai disc jockey di poter creare le loro sequenze musicali senza sosta. Questo genere di dischi è stato prodotto in larga scala fino agli anni 90, e oggi il collezionismo di dischi in vinile è alquanto diffuso, specie nelle fiere, nei mercati dell'usato, e verte soprattutto sui dischi in vinile da 33 giri, perché in genere sono stati conservati in modo più accurato. Poi, come dicevamo, ci sono artisti anche della nuova generazione che pretendono dalla casa discografica la distribuzione di un numero limitato di copie in vinile, proprio per l'utilizzo soprattutto dei disc jockey, ma anche degli appassionati del suono analogico. Facciamo un'altra pausa con il sound gospel del numero uno del gospel contemporaneo, Kirk Franklin con Could Have Been, qui al Soundcheck di Radio 24. Yeah, yeah, yeah, yeah. Without your lover, tell me, where would I be? Where would I be, Jesus? Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, oggi al Soundcheck di Radio 24 stiamo raccontando l'evoluzione dei supporti musicali, l'invenzione finalmente del grammofono, quindi l'utilizzo del 78 giri a opera di uno strumento meccanico, poi con l'elettricità l'avvento di registrazioni su microincisioni fatte su supporti di plastica come il vinile, quindi l'invenzione dei sistemi di amplificazione che ci permettevano di poter suonare con il giradischi il 33 giri e il 45 giri. Arriva poi nel 1960, nei primi anni 60, l'invenzione del mangiadischi e la possibilità quindi per tutti noi di poter trasportare la musica un po' ovunque. Quindi la musica veniva registrata con microincisioni ma anche su supporti magnetici, sui famosi nastri magnetici praticamente consistevano in una sottile striscia in materiale plastico rivestita di un materiale magnetizzabile in grado di memorizzare la musica come variazioni di una proprietà magnetica. E il brevetto originale è del 1927 e sin dagli anni 30 si iniziarono a diffondere alcuni registratori magnetici con un primo brevetto per la registrazione sonora che nacque nel 1947 a opera di un italiano, il dottor Arrigo Castelli, che lavorava per la ditta italiana Geloso. E inizialmente i registratori erano abbastanza ingombranti, rimasero a bobine aperte o bobine intercambiabili con nastro libero, quindi semplicemente il nastro avvolto su una bobina, fino a quando non fu inventata la musicassetta. E sì, perché la diffusione dei registratori a bobina rimase prevalentemente riservata agli ambienti professionali, e quindi con l'invenzione della musicassetta si arriva alla creazione di un supporto fonografico a nastro magnetico che si diffuse molto e divenne rapidamente molto popolare per la sua economicità e semplicità d'uso. Un piccolo contenitore con due bobine che raccolgono il nastro su cui può essere registrato materiale sonoro di vario tipo. La musicassetta è stata introdotta sul mercato dal 1963 a opera della Philips e nel 1979 c'è la svolta, ovvero l'invenzione di un supporto tascabile, l'invenzione del Walkman, il primo lettore portatile prodotto dalla Sony, che incentivò quindi l'utilizzo dell'audiocassetta. E lo stesso termine Walkman è stato a lungo un termine comunemente utilizzato per definire ogni generico strumento di riproduzione di audiocassetta portatile, quindi Walkman di varie marche e di varia natura. Quindi facciamo una breve pausa, un'altra pausa. Non vi sto qui a parlare dello Stereo 8 che nasce nel 1966, lo ricordiamo, lo Stereo 8 che veniva utilizzato nelle macchine dei nostri papà, ma andiamo alla musica con una band che per la prima volta fa la sua apparizione qui al Soundcheck, band a cappella, solo voci, si chiamano Pentatonix, bravissimi, e qui eseguono un successo di oggi, vediamo se lo riconoscete. Pentatonix al Soundcheck di Radio 24. And we'll never be chiamano Pentatonix, le voci a cappella dei Pentatonix che qui ripropongono con un nuovo arrangiamento vocale questa versione di Royals, il successo contemporaneo della giovanissima Lordi, la songwriter neozelandese che sta vincendo di tutto ormai da qualche anno a questa parte. E sì, stiamo per chiudere questo appuntamento, quindi ci riserviamo un'altra puntata del Soundcheck. Domani continueremo a raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti i supporti musicali sui quali e con i quali siamo cresciuti musicalmente, quindi parleremo, come dicevamo, dello Stereo 8 per arrivare poi all'invenzione dei Laserdisc e del CD e quindi all'MP3, ma lo faremo domani. Vi lascio con la musica, la grande musica scritta da James Taylor, un grande successo intitolato Don't Let Me Be Lonely Tonight, nella versione di Michael Brecker che ospita James Taylor, per chiudere in bellezza questo appuntamento del Soundcheck. A tutti voi grazie per l'attenzione, buon pomeriggio e buona musica da GG Telesforo. But don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no. Please don't let me be lonely tonight. Soundcheck, il suono della musica.